Francesco Baccini. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutte. Cantautore, tra l'altro è proprio che hai mie stesse età, quindi è di un'annata magnifica. Comunque, certo. E infatti cantautore di grande successo, amato e apprezzato, soprattutto e anche per la sua versatilità. Colpo di genio, intuizione, sesto senso, chiamalo come vuoi. Quanto contano, quanto sono importanti questi ingredienti nel tuo lavoro di artista, Francesco? Beh, qui si vive di colpi di intuizione, di colpi di genio, di, se no nella vita sei levato, perché le canzoni alla fine sono delle intuizioni, normalmente, a meno che veramente non le fai come fare un dentifricio, però se lo fai in una maniera comunque da artista, l'artista è fatto solo di quello, di intuizione, di colpo, di veramente anche quasi misterioso, perché lo vedo su di me in mezzo al pianoforte e fino a un minuto prima non esisteva niente e in quattro minuti ti esce ho voglia di innamorarmi. È un mistero quasi divino, anche per te che la stai facendo. Senti Francesco, ma ci sono, tu hai visto che ad esempio le intuizioni ti arrivano più facilmente in un momento particolare, se tu hai citato il pianoforte o se sei rilassato, se sei a contatto con la natura, se insomma è vero come dicono gli esperti che queste intuizioni parlano soprattutto quando noi abbiamo una percezione più profonda del nostro io e quindi siamo più in contatto con la nostra parte, quella, no, più profonda, più intima. A te succede così oppure ti capita? Succede il contrario. Succede che sono più creativo nei momenti che ho dei grossi problemi o dei problemi. Se non ce li ho, tendo ad appiattirti, no? Sì, è un po' come, no, come la lepre inseguita dal cacciatore che zang, no, cambia direzione e lo spiazza, evviva! Senti, invece nella tua vita di uomo, nell'amore, nelle relazioni, quelle più... È lì l'intuito? Un disastro diverso. Perché, perché sbagli sempre? Sì, ma sbaglio completamente, perché le mie intuizioni lì vanno a farsi benedire. Senti, allora fai così. Le intuizioni cattive, però io mi fido poi del mio istinto, sono un istintivo, quindi non posso vivere altrimenti, anche se provo magari a volte e tento di fare il razionale, un disastro. Poi sono bilancia ascendente gemelli, come posso essere uno coi piedi per terra? No, anche no, aria più aria, doppio più doppio, ciao, buonanotte. Va bene, comunque se hai bisogno delle consulenze tu prima di scegliere mi chiami e io ti dico senti, questa qua mi sa che questa per te non va bene. Senti, tra poco parte il tuo nuovo tour in cui porterai proprio a spasso Luigi Tenco per i teatri d'Italia e lo farai in un modo nuovo. Riflettevo, quando si parla di Tenco, di solito ci si sofferma sulla notte della sua morte, sugli scandali che ne sono seguiti. Invece tu dai una lettura originale di quest'artista che, ricordiamo, con una carriera di meno 8 anni e testimoniata da 3 soli anni, album, ha davvero così fatto, è stato davvero una rivoluzione nel mondo della canzone italiana. Innanzitutto, appunto, quando si parla di Luigi Tenco si parla della morte di Luigi Tenco. Normalmente si parla della vita di Luigi Tenco e infatti questo spettacolo, questo concerto, perché poi alla fine è un concerto, vuol far venire fuori Tenco a 360 gradi. La gente di Tenco ha una percezione di uno triste, depresso, che cantava canzoni d'amore tristi. In realtà non ha fatto solo quelle. Tenco ha una produzione di più di 80 canzoni e oltre al Tenco intimista, che è quello che maggior parte di gente conosce, c'è un Tenco sociale, un Tenco ironico, che è assolutamente inedito, almeno tranne veramente gli stretti afficionados conoscono. Quindi ho fatto un lavoro di ricerca con Marco San Giovanni e Paolo Cagliari, che sono due esperti del settore, uno addirittura Paolo è un musicologo che si occupa anche di soprattutto di musica contemporanea, quindi sì. È stato proprio un lavoro. Quindi alla base c'è la conoscenza, ma c'è stata l'intuizione, una sfida a dire perché solo il Tenco intimista, oltre sai, a questo sai, c'è dell'altro. In realtà io mi inseguo con Tenco da una vita. Ho cominciato da ragazzino perché io ho scoperto la musica leggera, io facevo musica classica perché un giorno mio cugino più grande mi prestò dei dischi di André Tenco che non gli ho mai più ridato, anzi c'ho dei pezzi da collezionista ormai

Sì, un po'. Più forse della ragione. Ecco, questo lo sapevo e per questo l'ho invitata, perché dobbiamo un po' bilanciare. Ma prima di dare la parola al professor Remuzzi, a cui voglio chiedere quanto anche nel mondo della ricerca, nel mondo della medicina, che si basa naturalmente su delle prove, su delle ricerche, sui numeri, conta anche l'intuizione, voglio selezionare il messaggio che in realtà ha selezionato il nostro ospite, che è quello di Giuliana, che riceverà a casa al libro. Ci scrive: l'intuito come lampo che illumina una stanza, come cinguettio che rompe il silenzio nel bosco, intuito che ti fa toccare il cuore delle cose. Questo è il messaggio tra i tanti che ha selezionato Francesco Martelli, e Giuliana riceverà a casa il libro. Professor Remuzzi, venendo a noi, conta quanto conta? Numeri, intuizioni? Beh, conta tutto, conta l'intuizione, conta la logica. La medicina, per esempio, una volta era fatta di conoscenze molto superficiali, ci si basava sull'esperienza del medico. Esperienza voleva dire aver visto altri casi simili, cercare di ricordarsi chi in seguito quale cura, per esempio, stava meglio o era guarito, sì, e chi no. E allora si curavano i nuovi ammalati con quello che si pensava avesse fatto bene a quello di prima, ma era un metodo molto pericoloso. C'erano dei medici che scrivevano queste esperienze nei libri o nelle riviste, così si faceva una tradizione. Poi c'è stata un'intuizione, e questa intuizione è venuta nel Settecento a James Lind, che era un dottore di Edimburgo che si trovava a bordo a una delle navi della regina. Lui era in un bel guaio perché i marinai sanguinavano dalle gengive e perdevano tutti i denti, era scorbuto. C'erano dei rimedi empirici, ma come si faceva a distinguere quelli efficaci dagli altri? Allora Lind ha avuto un'intuizione, corroborata però da una grande logica. Ha diviso 12 marinai in 6 gruppi di 2. Ciascuno dei due della coppia avrebbe avuto un trattamento diverso da quello delle altre coppie. Solo due marinai che avevano avuto il succo di 2 arance e 1 limone al giorno guarirono, gli altri no. Lind lo scrisse, e questa intuizione fu probabilmente il primo studio clinico controllato. Anche se poi per tanti anni non se n'è più fatto niente, ma adesso è la base di tutta la medicina. E quindi è partito da lì, poi però per un po' tutto questo è rimasto come nel dimenticatoio. È stato tutto dimenticato finché a un certo punto un altro dottore, il dottor Hill, che aveva ereditato la passione della medicina dal padre, era un pilota e però aveva preso la tubercolosi, l'hanno mandato a casa, pensavano che morisse. Lui invece era appassionato di statistica e ha cominciato a comparare gruppi di ammalati con la stessa malattia, assegnandoli a trattamenti diversi, quello di cui si voleva testare l'efficacia e il cosiddetto placebo, una pillola uguale ma che non contiene il principio attivo. Allora, in questo modo la medicina è cambiata, in questo modo abbiamo capito che cosa è efficace e che cosa no. Se oggi sappiamo curare le leucemie, se non moriamo più di infarto o molto meno, se sappiamo curare la pressione alta, lo dobbiamo all'intuizione del dottor Lind e a questa capacità che hanno avuto Hill e Richard Doll di impostare questi studi controllati. Quindi a uno diamo un farmaco attivo, a un altro un farmaco per finta. Io sapevo che invitandola ci avrebbe detto delle cose interessanti. Questo non è intuito e certezza. Professor Remuzzi, grazie, spero di averla grazie qua ancora presto. E salutiamo il nostro esperto Francesco Martelli. Ricordo il titolo del libro: Vivere con intuito, riscopri la tua capacità di avere buone intuizioni. Allora, buone intuizioni per oggi pomeriggio, e intanto cercate di averne un'altra domani alle 11 e collegatevi con noi. Grazie e buonissima giornata da Nicoletta. Grazie.